La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Raccolgo l'invito di Gaetano Mercadante di Lecce, il quale dice: senti, ti prego, ricomincia a rispondere alle lettere. E sai cos'è? Che a volte la fabulazione mi prende la mano. Mi piace molto anche raccontare storie. Però ecco, questa volta ci siamo messi in testa con Gloria Guerrera di rispondere a tutte le lettere che ci vengono, prima o poi, insomma, che ci vengono mandate. Quindi grazie Gaetano per avercelo ricordato, ma ci pensavamo anche noi comunque. E quindi cominciamo a rispondere anche a quelle rispetto alle quali siamo rimaste indietro. Ad alcune che sono poco più che saluti, risponderemo con dei saluti, per esempio a Danna Cattoretti, la quale ci dà una grande soddisfazione. Dice che era a letto, non aveva voglia di alzarsi e poi ha sentito la trasmissione, è balzata dal letto e mi ha dato energia per tutto il giorno. Energia che prendo anche dalle onde che sbattono sugli scogli del faro. Che idea geniale. Beh, grazie Anna. E un saluto anche al Guerriero della Luce. Lui ha scritto il suo nome e cognome, ma ci prega di chiamarlo così. Perché il Guerriero della Luce ci ha mandato una poesia di festeggiamento dove celebra la fine di una lunga ossessione amorosa, dalla quale, dice, è guarito completamente. Non abbastanza da non compiacersene, ma è così, come i drogati. Quando escono dal tunnel, poi ogni minuto dicono: ehi, oggi non mi sono fatto. Quindi lui è molto contento perché, insomma, ne è uscito. E poi rispondo a Monica, dell'Associazione Alimenti, che dice: viviamo in una zona depressa, cacciata su se stessa, la Bassa Padana. Hanno voglia i potenti, potenti solo di ruolo, non certo per meriti o valori, a parlare di federalismo, di necessità di chiuderci e rinchiuderci nelle nostre terre. Noi ci sentiamo soffocare. Vogliamo invece aprirci, confrontarci, ascoltare ed essere ascoltati. Ma soltanto chi ha buon senso. Siamo stanchi, mille volte stanchi, e vi ringrazio molto per avermi fatto scoprire la meravigliosa Luce d'Eramo e l'appassionante Antonio Pennacchi. Ma grazie a te, Monica. Poi Andrea Ravenni. Mi piace molto quando in poche righe abbiamo la visione di un'altra vita, un viaggiatore che torna e accende la radio e ci ascolta fra un treno, un aereo e chissà mai anche un vapore. Oh, e poi ringrazio Maddalena Ferrara che ci ascolta prendendo il caffè, anzi dice insieme al profumo del caffè, architetta di Milano. Ancora un dettaglio da Valentino di Firenze, Valentino Galasso di Firenze, ci ascolta a letto. Mi piace sempre sapere come coglie la radio l'ascoltatore, e particolarmente ci piace a letto perché è il luogo dei sogni. Poi Carmine Antonelli. Ah, questo a Carmine Antonelli, senti, io ti ringrazio perché non ho mai ricevuto una lettera così, neanche da giovane. Dice: sono innamorato della tua anima, ti vorrei toccare. Ho 72 anni. Beh, l'età giusta. Benissimo, guarda, caro Carmine, ma mi piace molto, sai, sono vecchio anch'io, quindi e ti faremo un altarino speciale al faro, perché è molto bello che qualcuno desideri toccare una voce. Ah, poi Daniela Reali mi dà una grande soddisfazione. Mi dice che in giro i miei libri non ci stanno, questo lo sapevo, e particolarmente non trova Vangelo secondo Maria. Allora, cara Daniela, mentre Gianluca Nicoletti regala dalla sua trasmissione i libri infami, noi ti manderemo questo che non consideriamo infame, infatti ce l'ho solo io. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Gentile cara Barbara, sarà per il mio parziale isolamento dovuto al lavoro precario, al conto in banca e a dover accudire una madre in difficoltà, facendo con molte donne anche la figura del patetico bamboccione, ma sento di aver perso l'orientamento, di non capirci più nulla. Mi corregga, o al limite mi faccia riflettere su questo punto. Il matrimonio, o comunque il rapporto con una donna, ha perso ormai quell'esclusività anche sublimemente formale che abbiamo considerato fino al secolo scorso? Oggi il rapporto con una donna implica da parte di entrambi l'assenza di remore e il filtraggio esterno purché sia, e quindi la sua naturale accettazione? Non ho baffi né insane gelosie, ma vesto le corna senza eleganza. Metterle mi pare cosa bassa e meschina. E nel tradimento il sesso è il meno. Al limite si chiude la faccenda, sbaglio? O conviene scendere nella pista dell'ipocrisia per raccattare un po' di felicità? Alla luce di queste circostanze, da quali segnali accorgersi di avere a che fare con una persona sincera o ancor meglio leale? Stefano, 45 anni, Italia Centrale. Ma Stefano, non ci sono dei segni particolari che denotino una affidabilità assoluta. L'unica è fidarsi dell'istinto, che può sbagliare, sbaglia spesso, ma molto meno della ragione. E comunque nessuno di noi è garantito, né gli altri sono garantiti da noi. Fino a qualche decennio fa la famiglia era il fondamento della società e non si richiedeva l'amore. Ma poi ecco che si pretende anche l'amore dal matrimonio. E questo da quando le donne non si fanno più usare come oggetti di baratto. Dei miei nonni, due si erano sposati volendosi bene e gli altri due con un matrimonio combinato. Ma anche adesso che si sceglie liberamente è un azzardo, perché le persone cambiano e ognuno di noi è in continuo mutamento. Alcuni si evolvono e altri peggiorano. La persona giusta non esiste. Ce la fabbrichiamo noi, giorno per giorno, fabbricando noi stessi accanto ad essa, se abbiamo la fortuna di avere intelletto d'amore. Auguri. Auguri soprattutto di pensare un po' meno e di abbandonarti un po' di più. La guardiana del faro. Giulia Madonna scrive perché devo assolutamente sapere se la mia scrittura ha un qualche valore e se devo continuare a nutrire questo sogno. Ecco, ma perché vuoi dare a me questa responsabilità? E tu scrivi, ed è una frase che mi prende molto, ti chiedo solo un po' di attenzione. Sai, anch'io Giulia la vorrei tanto. È quello che vorremmo tutti. Adesso mi alienerò la metà degli ascoltatori della Guardiana del Faro, perché a quanto pare la metà di voi scrive e me ne rallegro. E mi commuove, mi piace anche l'idea che voi siate portati a mandare i vostri testi. Però questa è una piccola trasmissione in punta di piedi. Ci siamo Gloria Guerrera, Alessandro Cappini e io. Non abbiamo segretari, non abbiamo lettori e la redazione è invasa da un numero di libri incredibile. Mi dispiace, se io fossi Superman e riuscissi a fare vroom in un lampo, leggere tutto lo farei. Invece ci vuole molto tempo per leggere, perché anche se io non facessi altro, non avrei neanche il tempo di dormire se dovessi evadere tutti questi libri che arrivano. Ecco, io trovo terribile quando qualcuno mi dice, sai, ti chiedo soltanto un parere. Ma come soltanto un parere? Tu mi chiedi di fare il giudice, di diventare eventualmente il tuo boia, perché se poi non mi piace... Oh, tra l'altro, io sbaglio. Io non voglio essere il giudice di nessuno. Perché vedi, se venisse da me il giovane Joyce, col suo capolavoro, l'Ulisse, io gli direi, senti caro, taglia un'ottocentina di pagine. E invece è universalmente considerato il più rivoluzionario capolavoro del Novecento. O addirittura, guarda, fosse venuta Elsa Morante, col suo libro che venne poi festeggiato immensamente, che la fece scoprire il mondo letterario, Menzogna e Sortilegio, e la fece proclamare una delle più grandi scrittrici italiane, io gli direi, signorina, impari la misura. Impari il ritmo. Questo è un mattone senza vita. Lo vede come sono fallace. E poi immaginiamo invece che mi piaccia. Senti Giulia, io non sono mai riuscita a fare pubblicare un libro che mi piacesse. C'è un caso, anzi lo voglio intervistare prossimamente, Tony San Giuliano, un mio amico, che aveva scritto un libro intitolato Fosforescenza. Non è che non sono riuscita a farlo pubblicare. Le case editrici con cui lavoro non lo hanno neanche letto. Ecco, quindi divento un tormento, un tunnel. Io non ho potere letterario. È la mia libertà ed è il mio limite. Sai, io stessa, Giulia, vorrei essere letta. Io ho dedicato la vita alla scrittura e mi si filano in pochissimi. 5 anni a scrivere un libro su Majakovskij, 8 a scrivere su Tolstoj, sapendo benissimo che sarebbero caduti nel vuoto. Ti potrei dire Memorie malvagie, Delirio, Vangelo secondo Maria, Donna di piacere, Il Signore servito, Povera bambina. Tu dici, e che è? È l'inizio di una lunga serie di miei libri che nessuno legge. Ne hai mai letto una riga? No. Comunque, non sono la persona giusta. Io mi rendo conto, se tu mi mandi un saggio di 4 pagine e mi dici su queste voglio un parere, io te lo do spiegando bene che il mio parere non vale nulla, né come mondo letterario, e neanche come attendibilità. Questa è la lettera di Giovanni. Il 6 dicembre è venuto a mancare Enrico, il mio compagno di una vita. Oggi io ho 52 anni. Lui è morto, ne avevo 81. Non si creda che l'età veneranda possa lenire il dolore per la perdita. Ripenso continuamente a quel periodo molto duro, ma anche bellissimo. L'amore per lui mi faceva vincere ogni fatica, superare ogni rinuncia senza sentire il sacrificio. Stare vicino a lui, che diventava ogni giorno più fragile, indifeso, spaventato, medicare quel corpo, un tempo forte e bellissimo, che avevo accarezzato ed amato e che ora non riconoscevo quasi più. Avevo persino timore ad abbracciarlo, per la paura di fargli male. Era diventata la mia unica ragione di vita. E a ripagarmi di tutto bastava un suo sguardo, il bacio sulla fronte quando lo mettevo a letto. Anche se in realtà negli ultimi tempi dormire era diventato un lusso per entrambi. Mi è tornata alla mente la puntata della Guardiana intitolata Max era Max, in cui parlavi di tuo fratello Chico e della sua morte improvvisa. Mi sento perso, non riesco a reagire. Passo le giornate in casa, dove ogni cosa mi parla di lui, di noi. E il dolore, anziché attutirsi, si amplifica e mi distrugge. Ogni notte vado a letto sperando di non risvegliarmi il mattino dopo. In 31 anni abbiamo condiviso tutto, e di questo tutto non mi rimane niente, se non le cose materiali, mentre il senso profondo della mia, della nostra esistenza, è scomparso, è andato via con lui. Giovanni. Mi piace molto la lettera di Giovanni che parla del suo amato, perché è il rischio terribile cui si espone un giovane che si mette con uno che ha 30 anni di più. Quando si sono incontrati, Giovanni aveva 20 anni e l'altro 50. Anche a me piacevano molto i vecchi quando ero giovane. Era come contenderli alla morte. Ogni gesto che facevo d'amore mi pareva che lei facesse un passo indietro. Beh, senti, grazie Giovanni. Qui c'è una bella, lunghissima lettera di Pierpaolo che però riassumo. So che la mia vicenda è quanto mai ridicola, o meglio tragicomica. Ho 47 anni e sono praticamente vergine, non tecnicamente. Sono stato sposato, ho una figlia e sono nato a Perugia e, come la cronaca ci ricorda, all'università per stranieri da rimorchiare non mancava mai, purtroppo. Perché io mi innamorai di una compagna di scuola il primo giorno di liceo. Ricordo ogni cosa di lei, il riflesso del sole sui riccioli castani, gli occhi verdi con il sole e azzurri con le nuvole. Ricordo il piccolo neo alla base del collo. Oh, lui corteggia questa ragazza, si mettono insieme, si innamorano e poi non fanno l'amore, anche se lui sarebbe maturo per farlo. Insiste anche un po', ma lei non vuole, lei invece non si sente pronta. E allora un pomeriggio si lascia trascinare ad una festa, vanno via lui con un altro ragazzo e due ragazze, una bellissima ragazza marocchina, e lui, per non fare la figura dell'imbranato, almeno così, fa l'amore con questa ragazza. L'altra lo viene a sapere e non vuole più stare con lui. Lui si pente, si dispera e niente, ormai la fiducia è finita e quindi niente da fare, non mi fido, rispose. Da allora in ogni donna con cui sono stato ho cercato Giulia. Non appena il rapporto comincia ad essere meno superficiale, il viso di Giulia si sovrappone a quello della malcapitata. Lo so, è dannatamente stupido alla mia età pensare ancora a un amore d'adolescenza, ma è così. E qui viene una parte molto interessante. Lei si è sposata, il marito presto si è dimostrato rozzo e volgare, l'ha tradita e trattata male anche in pubblico e infine l'ha lasciata. Ha avuto problemi di lavoro e di depressione. Dalle ultime notizie so che si trova in una clinica dove curano, per quanto si può, la depressione. E io mi sento terribilmente in colpa. Lo so, non si può dire come sarebbe andata. Tutti mi dicono che non è colpa mia. Io però lo penso. Non ci sono consigli per me. Se deciderà di leggere questa mia, per favore dica questo. Una Rossana o un Cirano sono difficilissimi da incontrare. Se vi succede, tenetevi stretti. Grazie, Pierpaolo. Beh, Pierpaolo, non è un grande esempio Rossana e Cirano, perché effettivamente il loro amore non comunicherà mai, salvo nel momento in cui lui ha preso la botta in testa e finalmente rivela che era lui a scrivere le lettere. Il punto è molto più semplice. Tu sei innamorato. Ed è sorprendente, tra le lettere che arrivano, quanti rimpianti per storie di 30 anni fa, quante cose lasciate a metà, che poi crescono come degli alberi intricatissimi e fanno parte di noi, e quanti amori perduti che sono lì presenti, non se ne sono mai andati. Ora, grazie per il consiglio finale di tenerci stretti quelli cui vogliamo bene. Ma perché non cominci tu? Tu non vuoi un consiglio, ma io te lo do lo stesso. Al tuo posto io cercherei questa donna. Anche perché lei potrebbe aver bisogno di te. Lei in questo momento è in grande difficoltà. Perché non cerchi di rallegrarla? Ho letto più volte che la depressione è un sintomo e non è il male. Lei non è depressa, è delusa, è disperata. È una donna bisognosa di attenzione, bisognosa d'amore. Pensa che allegria, se non altro, sapere che dopo 30 anni qualcuno ha continuato ad amarla continuamente, che la ama ancora. Non dico che finirà a rose e fiori, che vi metterete insieme, che tutto sarà bello. Dico soltanto che sarebbe un gesto importante, concreto. E abbiamo detto appunto che la depressione è un'invenzione moderna per azzerare tutte le passioni e i drammi e curarli con la chimica. E la depressione di questa tua ex ragazza avrà la dignità di avere un nome. Mortificazione per essersi fatta trattare male dal marito, mancanza di moventi luminosi o anche soltanto di moventi. E se c'è una cosa che cura tutto è l'affetto di una persona che esce inaspettata dal passato e ti dice: senti, se vuoi io sono qua per te. E non ti dico appunto di ricominciare un amore sopra il quale è passata la vita, però almeno starle vicino. Tu sei innamorato, forse non di lei come oggi, forse sei solo innamorato della ragazzina di 17 anni che ti ha lasciato, però cercala, a meno che tu non sia affezionato alla tua nostalgia, al tuo sogno triste, e non abbia paura di sciupare il ricordo, a meno che tu non ci tenga all'amore impossibile come al più amaro e prezioso dei tesori. E in questo caso allora sta lontano. I fantasmi sono sempre più comodi delle persone reali. Mi scuso con Simonetta che mi ha scritto il 24 ottobre, rispondiamo l'anno dopo, però ti vorrei rispondere lo stesso perché la tua lettera era molto interessante e si riferiva a una trasmissione che avevamo fatto su fare o non fare marchette, parlando di questa escort che aveva fatto l'appello su YouTube sul fare marchette come unica soluzione per una bella ragazza, e da lì si era aperta una discussione con gli ascoltatori. E Simonetta scrive: le marchette sono sempre la morte del tuo impulso ad essere come sei. Dopo tutti questi anni in cui il mio carattere mi ha impedito di arrivare dove la mia scienza mi avrebbe permesso, quello che ho da dire è: se non le fai, le marchette, non sempre è per alta filosofia, ma perché il tuo modo di essere te lo impedisce. Però paghi un prezzo molto alto: solitudine, pochi soldi, mancanza di accesso alle informazioni. A volte pagare questo prezzo è insopportabile. E non sono del tutto convinta che si riesca a rimanere del tutto se stessi anche non facendo marchette, perché poi mancano gli stimoli, soprattutto professionali, che il privilegio di qualche marchetta ti avrebbe garantito. Simonetta, nello spettacolo di Marco Travaglio, Anestesia Totale, Isabella Ferrari leggeva dei brani di Indro Montanelli e c'è una frase che, ascoltata distrattamente, sembra un luogo comune, ma che merita un'attentissima riflessione. Diceva semplicemente: la libertà ha un prezzo, ovvero occorre tantissima forza per conquistarla, e non è mai una volta per tutte, è un lavoro di ogni istante, perché gli attentati ad essa e la tentazione di perderla si nasconde in ogni nostro gesto. Ci vuole una grande forza perché l'esercizio di resistenza non diventi una sconfitta. È un rischio. Questo cammino non è una linea retta. Io, per esempio, non ho avuto scelta. Senza la mia libertà di espressione sarei impazzita o morta. La guardiana del faro. Sharmanka sharlatanka. Как сладко. Oggi con Gloria Guerrera abbiamo pensato di farvi riascoltare un brano su D'Annunzio che abbiamo già trasmesso l'anno scorso, dedicandolo a Oscar Giannino. Gabriele D'Annunzio. Beh, devo dire, il suo forte non è la simpatia. Eppure io, per questo antipatico universale, provo il sentimento più improbabile, che è una grande simpatia, una invincibile simpatia. Io gli voglio bene, perché era nato per vincere e ha perso, malgrado una sovrabbondanza di doni quasi oltraggiosa. Maestro della lingua, stupefacente prosatore che tocca ogni stile, incantatore di creditori, irresistibile in amore e anche arbiter del suo tempo. Però non ha mai fatto una giusta e per questo mi è simpatico. D'Annunzio sarebbe odioso, se non fosse che si crede un grande cavallerizzo, appena sale a cavallo cade e si fa male. Fa i duelli, sfida tutti e le prende sempre. Non ha mai vinto un duello D'Annunzio. Va con le mogli degli altri e lo bastonano.

oppure quello della Capponcina nella sua imitazione del gran gentiluomo di nascita, con le donne più conturbanti d'Europa, cavalli costosi come regine e 40 levrieri. Il D'Annunzio che amo e rispetto è quello a Gardone, che segna un confine fra sé e la storia, chiudendosi al Vittoriale con i suoi famigli, piccola tribù di superstiti pelle rossa, circondati da yankee cannibali. Il D'Annunzio stregato dalle pantofole, dal comfort del suo harem domestico, tutte, come dicevo prima, badanti più che amanti. Il D'Annunzio vinto e trasognato, che si è venduto per un piatto di lenticchie, che ha affidato al ricordo di Fiume la sete di un'esistenza leggendaria, che ha vissuto tante vite ed ora è un trapassato, il vedovo di se stesso, l'ectoplasma, la larva. Colui che deve adoperare talento e astuzia che gli basterebbero per 3 romanzi, per una breve lettera a Mussolini, cautamente ricattatoria, per 4 soldi o un misero favore. Nel suo povero fortino, nella segregazione e nella rinuncia, che traluce lo spessore dell'uomo. E quel buddismo di cui parlava e che suonava frivolo, quel francescanesimo così incongruo, ridicolo. Prima, questa buffoneria del rito del saio, qui rivelano un'autenticità che trapassa il cuore, santità della paccottiglia, dello stringersi gli uni agli altri. Qui D'Annunzio è grande, è un sommesso martire. Se gli fossero apparse le stigmate, non ci sarebbe stato niente di strano. E forse, per mistica superbia, non l'avrebbe fatto sapere a nessuno. Ефрейтор морально нестойкий женился на пленной, но пряников целый мешок захватили они. La guardiana del faro. Vi leggo la lettera di Marta, una lettera terribile sulla separazione. Da molto tempo una vicenda di ex mogli e di ex figlie, è perfido, ma è questo il punto, ci trascina di tribunale in tribunale. Ci sono stati morti e feriti, e perdite economiche, un insulto alla miseria. La storia passa dalla farsa alla tragedia per tornare alla farsa. E mentre questo accade, un ragazzo si fa un nodo intorno al collo con la cinghia della persiana. Due diventano delle pazze, con un ego così ipertrofico da richiedere corpi enormi per contenerlo. Un uomo ha il cuore che si è già fermato 2 volte e quello che lo rode da anni è diventato un cancro. Dopo aver pianto il giusto per i morti e un po' anche per me, uccido le 3 draghesse pelose e gibbute, cioè le figlie. Ah, che sollievo essere scorretti. A suon di risate, ogni volta che mi giunge notizia di qualche loro impresa o l'incontro, magari in rete, ad autocelebrare il loro genio letterario e artistico, tanto stupefacente quanto, ahimè, incompreso dalle menti inferiori. Però, dentro, questa rabbia, questi anni passati in tribunali e cause, a celebrare una vendetta che in tempi andati, più salutarmente, si sarebbe conclusa con un atto cruento, forse, ma più rapido, mi intossica e perdo tempo ed energia per distaccarmene. Insomma, va così, ma mi sto impegnando molto. Io sono padovana, ma insegno in Calabria. Abbiamo una conoscenza in comune. Geneviève è stata allieva di mio marito, Marta. Cara Marta, io non ho niente da aggiungere a questa lettera tremenda e l'ho letta soprattutto perché è meravigliosamente scritta. E questa lettera è una visione della guerra dei mondi, ovvero di una separazione in cui ognuno dà il peggio. È una visione immaginosa e spietata. In trasparenza ci si vede il libro che potresti scrivere. Questo che mi hai scritto credo che sia la quarta di copertina del libro che ti auguro di finire. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, mia sorella è fidanzata da 10 anni con un abile filosofo, ipocondriaco manipolatore, che ha sempre fatto dei suoi malanni immaginari la ragione e la scusa per tenersi vicina alla sua compagna. All'epoca mia sorella aveva 30 anni e usciva da una storia lunga e piagnona, degna delle migliori gattare, con un uomo sempliciotto e tiranno. Catapultatasi immediatamente nella sua attuale relazione, sotto pressione del compagno sono andati a vivere fuori città e le frequenze di visita alla sua famiglia, inizialmente in coppia, si sono sempre più diradate fino ai giorni in cui mia sorella viene da sola a trovare i suoi cari. Da donna molto orgogliosa, in principio dissimulava l'angoscia per difendere la dignità della relazione, mentre ora, anche se a sprazzi e solo con mia madre, ha manifestato il suo malessere per un uomo impossibile dal quale non riesce a slegarsi. Io le ho detto più volte che lui è un fine disperato manipolatore tatticista e che lei è troppo masochista e timorosa del mistero che la libertà sottende per lasciarlo. Quindi le ho proposto di fare le valigie come per un lungo viaggio e di abbandonarlo, senza preavviso, per tornare a vivere. Ma non ha funzionato. Sono passati diversi anni e tutte le volte che ha tentato di lasciarlo, lui risponde con frasi del tipo «Da solo non ce la posso fare. È colpa tua che non mi ami più. Così mi lasci morire». Forse l'amore per l'altro è la paura che abbiamo di noi stessi. Un abbraccio da uno dei tanti innamorati dei tuoi pensieri. Davide. Ma sì, sì, è tutto giusto quello che dici, Davide. In te è la ragione che parla. L'amore per la sorella, la gelosia per l'intruso, che la tiene legata col ricatto. Però devi ammettere che lei si fa legare. Ti ricordi quel film incantevole di Pedro Almodovar, Legami? Un film di 20 anni fa con Victoria Abril e un Banderas agli esordi, l'ultima volta secondo me che è stato bello, prima di diventare imbalsito e finto che io non lo posso guardare. Ecco, lì lui la rapisce, la lega a letto, si innamorano e poi alla fine è lei che dice legami. Questo è in chiave spiritosa, non è in chiave sadomaso. È proprio un apologo sulla imperscrutabilità del meccanismo dei rapporti. Cosa ne sappiamo noi dal di fuori degli equilibri squilibrati di una coppia? Io da giovane ero come te, rompevo le palle a tutti. Cioè, se vedevo due che stavano insieme per motivi che giudicavo ignobili, di compromesso, mi mettevo a fare il giudice di guerra. Mi mettevo a dire, ma via, lasciatevi, voi non sapete cos'è l'amore. Ma lo sapevano, a modo loro. E così mi sono rovinata parecchi rapporti, fra i quali quello con un'amica che ancora oggi rimpiango e che 30 anni dopo ancora mi porta rancore e che secondo me ha ragione. Ero piombata come un nibbio sul loro nido dove non c'era l'amore come lo concepivo io. Oggi sono diventata più prudente e forse più di larghe vedute. Penso che da fuori è tutto chiaro, ma da dentro tu non puoi immaginare chissà quale complicità, quale godimento del sacrificio, quale voluttà della dipendenza abbia tua sorella e chissà quanto anche il disprezzo che lei prova per lui non favorisca questa storia. Anch'io, sai, vedo l'amore come luce, come un patto a risplendere l'uno attraverso l'altro. Ma ci dobbiamo rassegnare, Davide. Esistono anche piaceri diversi da quelli che concepiamo noi. Esistono i piaceri infernali e prima o poi possono capitare anche a chi meno se l'aspetta. Tua sorella ha una vena masochistica e lui sadica. Quindi, quando un sadico incontra un masochista, è veramente l'incontro ideale. È come whisky and soda. Per ora, io direi, ringrazia Dio che tua sorella vi venga a trovare da sola. Pensa se dovevi scirupparti anche questo piagnone e questo antipatico. Io direi ceri ai santi se sei credente. E se no, una sana risata. Va tutto bene. Cerca di voler bene a tua sorella senza questa ombra, come se non ci fosse. E se fai così, avrai la soddisfazione di farlo, anche un poco, fraternamente cornuto. Un giorno esco con amici, c'è anche lui, piccolo, non bello, per niente fine. Capisco di piacergli, ma non lo sopporto. Mi chiede il telefono e io non glielo do. Le uscite di gruppo continuano irregolarmente. Poi una sera rimaniamo noi due da soli. Vedo che si addolcisce, mi accarezza, mi bacia, mi lascio andare. Il cervello mi va in tilt. Piano piano sento che è entrato nella mia vita. Sembro una pazza, non capisco più niente, sono dimagrita, a volte piango. Una sera siamo usciti in pizzeria e tutti ci guardavano, non vedevo l'ora di scappare, siamo troppo diversi. Anche dirlo mi fa male, a volte quando sono lontana ho bisogno di stare con lui. Forse non è amore, ma quando stiamo insieme gli dico quello che sento e faccio l'amore come non lo avevo fatto mai, con naturalezza, senza paura. Lui dice che sono strana, si contraddice. A volte mi chiede cosa voglio da lui, altre che ha paura di legarsi. Forse è colpa mia, ma sento un dolore forte al cuore. Non mi interessa nessun altro. Vorrei vivere il tutto serenamente e non ci riesco. Sono una stupida? Rosaria. Cioè, non in assoluto, ma in questa storia stai andando contro te stessa a testa bassa. Cosa significa che siete troppo diversi? Che tu sei bella e lui è brutto? Ti imbarazza, capisco, che amore non si sia incarnato in un uomo bello, alto e fine. Ma sai, questo mariuolo volante non guarda in faccia nessuno e invece di un bel tipo elegante ti fa piombare addosso un piccoletto dal fascino bestiale. Ti sei preso una cotta spaventosa? Ma quegli sguardi in pizzeria, quando dici che vi guardano, io credo che te li figuri tu. Vi avranno guardato, al ristorante si guardano i vicini, ma l'unica scandalizzata, io credo, eri tu. E se anche poi avessero pensato, fatti conto, no, che ci fa una bella ragazza con quello lì, ma che te ne frega? Tu sei turbata dalla rottura delle regole, sei fissata che lui non sia alla tua altezza. E la metà di te che vuole l'approvazione dei vicini di tavolo rende la vita impossibile all'altra metà, che col suo piccoletto ci sta da Dio. L'uomo si contraddice, lo credo. Ha capito che ti vergogni di lui. Ora io capirei se dicessi è brutto ma lo amo. Ma dire lo amo ma è brutto è una frase insensata che bada solo all'occhio del mondo. E l'amore serve proprio a questo, a chiuderlo fuori, creandone un altro, in cui gli amanti sono gli unici e soli legislatori. Mi sono innamorata di certi brutti io, che nemmeno te li immagini. Ma la faccia di chi ami e perfino la sua statura esce dai canoni comuni per entrare in quelli della perfezione. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.